Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Immigrati, uno tsunami umano, dice il governo, rimpatria in Tunisia e Tendopoli in ogni regione, ma i governatori dicono no. La Francia non può respingere gli immigrati alla frontiera, Bruxelles ammonisce Parigi. Napolitano vede anche Lega Italia dei Valori, il Quirinale chiede un dibattito più sereno. Caos nelle città e il venerdì nero dei mezzi pubblici, secondo i sindacati, adesione al 90%. Buona giornata dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati. Rischiamo uno tsunami umano. È stato questo dunque l'allarme lanciato questa mattina dal governo dopo la riunione della cosiddetta cabina di regia. Il governo ha incontrato le regioni, ma le posizioni restano distanti, mentre sono migliaia i migranti ormai a Lampedusa, Manduria e a Ventimiglia. Molti in fuga, come avete sentito è intervenuta anche l'Unione Europea, ma cominciamo dalla riunione intanto questa mattina a Palazzo Chigi con Andrea Viali. Sì, Anna, buongiorno. Tornerà a riunirsi martedì a Palazzo Chigi la cabina di regia fra governo ed enti locali sull'emergenza immigrazione a Lampedusa. Come dicevi, nell'incontro di oggi il premier Berlusconi ha paragonato ad uno tsunami umani i flussi migratori che stanno partendo in questi giorni, in queste settimane dal Nord Africa. Ha spiegato che non ci saranno rimpatri di massa e che l'obiettivo è quello di rimandare a casa 100 tunisini al giorno. Nell'attesa, l'intenzione del governo è quella di trasferire i migranti da Lampedusa in tendopoli provvisorie che dovrebbero essere allestite in tutte le regioni, ha spiegato Berlusconi. Sentiamo le sue parole. Naturalmente la prima soluzione per noi è quella del rimpatrio e poi ci sono le altre soluzioni che saranno certamente discusse con tutte le istituzioni locali che oggi hanno dato anche la loro disponibilità a un ricevimento, ove ce ne fosse la necessità, parcellizzato nei comuni, nelle province e nelle regioni italiane. Lunedì Berlusconi sarà a Tunisi e si è detto ottimista sulla possibilità di arrivare ad un accordo sui rimpatri. Il premier porterà in dote aiuti per 100 milioni di euro. Se serve, costringeremo il governo tunisino a mantenere gli impegni, ha aggiunto invece il ministro degli interni Maroni, mentre le regioni dal canto loro si sono dette disponibili ad accogliere gli immigrati di Lampedusa oltre che i profughi, ma hanno bocciato l'ipotesi delle tendopoli. Sentiamo il presidente della conferenza delle regioni, Errani. È noto che non c'è l'accordo su questa questione, tende, tendopoli, eccetera, delle regioni e degli enti locali. Non possiamo costruire situazioni nelle quali non è possibile gestire. Io personalmente penso che le tendopoli verso la stagione dove stiamo andando non siano gestibili. E grazie ad Andrea Viali. Così dunque questa mattina alla cabina di regia a Palazzo Chigi. Da aggiungere che la commissaria europea agli affari interni Cecilia Malmström ha ammonito poco fa la Francia sui respingimenti alle sue frontiere. Secondo la commissaria, Parigi non può agire in questo modo in quanto i confini nello spazio di libera circolazione di Schengen non esistono più, e ha auspicato invece una soluzione bilaterale tra Francia e Italia. E a Lampedusa intanto anche stamattina il vento di ponente impedisce alle navi di attraccare, la situazione comincia ad essere critica anche nel Trapanese, tende da questa mattina si stanno montando anche a Torino nell'arena presidiata da forze di polizia. Allora facciamo il punto. A Lampedusa è tutto fermo perché il mare è agitato e il vento è troppo forte. Le navi con il loro carico di passeggeri non riescono a partire. I migranti così vengono definiti perché non si sa chi di loro sia clandestino, chi profugo. Una delle navi traghetto è riuscita ad attraccare questa mattina al porto di Taranto. Lo sbarco è avvenuto a più riprese, dalla pancia della nave agli autobus sotto scorta e tutti diretti alla tendopoli di Manduria. A Ventimiglia il centro allestito è già completo. A Torino dovrebbero arrivare lunedì circa 2.000 persone, ma il sindaco ha ritirato la disponibilità. Secondo Chiamparino non c'è certezza, non solo, c'è malafede da parte del ministro dell'Interno. A Manduria però alla fine della giornata saranno oltre 3.000, una realtà che il presidente della provincia di Taranto descrive così. Le persone che arrivano lì sono dentro una tendopoli, in una radura. L'altro giorno è fatto un'acquazzone durissima, le tende galleggiavano, oggi c'è un sole, sembra estate. Corre il rischio di trasformare un'operazione di accoglienza in una sorta di discarica umana. Anche sulla identificazione Gianni Florido spiega che le cose vanno diversamente da come dovrebbero. Manduria si chiama CAI, non è un CIE, cioè centro di accoglienza e identificazione. Questa operazione sarebbe dovuta avvenire a Lampedusa, ma siccome a Lampedusa non ci sono le condizioni, li portano temporaneamente a Manduria per identificarli e poi si decide. Quello che risulta è che a Manduria questa operazione non si sta facendo. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su un altro fronte, nuovo incontro al Quirinale questa mattina per riportare la calma tra gli schieramenti politici. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Spettacolo intollerabile, rischio per la credibilità delle istituzioni, sconcerto nei cittadini. Queste di fatto le constatazioni e le preoccupazioni espresse dal Presidente della Repubblica Napolitano negli incontri con i capigruppo di maggioranza ed opposizione. Incontri avviati dal Capo dello Stato sin da ieri sera al termine di due giorni di lavori parlamentari che hanno visto un'escalation dei toni tra le forze presenti in Parlamento. Così non si può più andare avanti, avrebbe detto a più riprese Napolitano. Secondo alcune interpretazioni il Quirinale penserebbe anche allo scioglimento delle Camere qualora i fatti degli ultimi giorni dovessero ripetersi. Maggioranza ed opposizione si accusano reciprocamente per il clima creatosi. Sentiamo allora Donadi dell'Italia dei Valori. Il Capo dello Stato ha espresso preoccupazione per la situazione politica italiana che palesemente sta vivendo un brutto momento e chiede responsabilità a tutti, ovviamente ciascuno nella misura in cui le responsabilità ce le ha. Ed è evidente che le responsabilità della maggioranza e del governo sono ben diverse da quelle dell'opposizione. È la sinistra, replica Cicchito dal PDL, che alimenta la tensione. Ascoltiamo le sue parole. Al netto di errori che sono stati certamente commessi anche nell'area di centrodestra, gli abbiamo fatto rilevare che una linea della sinistra, nella quale per un verso Bersani non riconosce nemmeno l'esistenza del governo e per altro verso, quando ci stanno dibattiti parlamentari, si convoca la piazza alle porte del Parlamento, tutto questo complica le cose. Bene Napolitano, commenta la Lega con Calderoli che aggiunge: Fini ora deve dimettersi, e da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Andiamo in Libia ora invece, dove resta confusa la situazione sul campo. Si combatte per il polo petrolifero della città di Brega. Poco fa i ribelli libici hanno fatto sapere che accetterebbero un cessate il fuoco, a condizione però che le forze pro Gheddafi lascino le città dell'Ovest. E allora sentiamo anche oggi il racconto dell'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Ma direi che in questo momento la situazione si è bloccata militarmente a sud di Bengasi, tra Gheddafia e Brega, in questa fascia che è l'ingresso della Cirenaica. Qui ieri sono stato a Brega e i ribelli, l'esercito rivoluzionario di Bengasi, è stato colto forse ingenuamente in un'imboscata da parte di miliziani di Gheddafi. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo qualcosa di evidente, cioè uno stallo militare, perché tra l'altro qui c'è una forte delusione, una delusione cocente per la decisione della NATO di non armare i ribelli, che evidentemente sono in inferiorità dal punto di vista militare rispetto alle milizie di Gheddafi. Dall'altra parte c'è una certa euforia per i segnali di disgregazione che si moltiplicano ai vertici del regime di Tripoli, con l'abbandono del ministro degli esteri Moussa Koussa, di un ambasciatore Kertrichi che era stato nominato all'ONU, forse anche per la defezione di un altro capo dei servizi dell'intelligence, Abu Ziyad Durda. Ma tutte queste notizie non cambiano la realtà della situazione, perché i raid dall'alto non stanno influendo in maniera determinante come nella scorsa settimana, e le milizie di Gheddafi sono intorno a Gheddafia, un nodo strategico che era stato riconquistato soltanto sabato scorso. Le defezioni vertici si moltiplicano, dicevo, questo regime appare in una lenta agonia, ma il crollo, a meno di sorprese improvvise, imprevedibili, non appare ancora così vicino. È fuori pericolo il militare della Folgore, vittima ieri dell'attentato a Livorno. È contro l'impegno militare italiano nelle missioni in Afghanistan e in Libia l'attentato rivendicato dalla FAI, la Federazione Anarchica Informale, che ieri ha inviato un pacco bomba alla caserma livornese della Folgore, provocando il ferimento del tenente colonnello Alessandro Albamonte, di 41 anni. Notte tranquilla intanto per il militare, ricoverato da ieri al CTO dell'ospedale fiorentino di Careggi per le ferite riportate nell'esplosione. Il tenente colonnello Albamonte, che ha perso tre dita e ha subito gravi danni alla vista, ieri sera è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. L'intervento durato 4 ore e, come riferito dai sanitari, ottimamente riuscito, messi infatti in salvo sia gli occhi che la mano. Dal presidente della provincia di Livorno, Cutufara, assicurazioni anche sulla salute della moglie del militare, incinta al 4° mese del secondo figlio. La Federazione Anarchica Informale è divenuta nota dopo l'ondata di plicchi esplosivi alle ambasciate di Roma nel Natale scorso, che causarono 2 feriti. Mentre l'azione di ieri è avvenuta in sinergia con altri 2 attentati di stampo anarchico, uno in Svizzera, la Federazione dell'Industria Nucleare Elvetica, e l'altro in Grecia, contro il direttore della prigione di Korydallos. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Notizie arrivano in questi minuti dalla Siria. Un numero imprecisato di manifestanti siriani antiregime, curdi musulmani e cristiani sarebbero scesi in piazza questa mattina nel nord-est del paese, al confine con Turchia e Iraq. Altre notizie di agenzia parlano di centinaia di manifestanti antiregime che sarebbero stati rinchiusi all'interno della grande moschea nel cuore della città vecchia di Damasco da agenti in borghese giunti a presidiare la zona, teatro 2 settimane fa di analoghe dimostrazioni non autorizzate. E ora andiamo in Giappone. 3 settimane dallo tsunami e sempre più sotto osservazione sono i prodotti alimentari. Andiamo dall'inviato Stefano Carrer. È un mondo che sembra essersi rovesciato. In passato erano i cibi provenienti dalla Cina a destare di tanto in tanto sospetti sulla loro qualità, mentre il cibo giapponese era considerato per definizione eccellente. 2 anni fa a Tokyo era scoppiato lo scandalo dei gyoza, i raviolini cinesi, che avevano fatto finire alcune persone all'ospedale. Adesso invece è la Cina che blocca le frontiere una serie di prodotti alimentari giapponesi, come stanno facendo anche molti altri paesi, e come minimo è stato aumentato il monitoraggio, compreso quello alle frontiere dell'Unione Europea. Il timore è quello della radioattività, riscontrata a livelli alti nella zona intorno alla centrale di Fukushima e che sembra entrata nella catena alimentare, prima nel latte, poi nell'acqua, poi in circa 100 di vegetali. Ieri, radioattività anomala, superiore a quella massima prevista dalla normativa sanitaria, è stata riscontrata anche nella carne bovina della zona. Al mercato all'ingrosso del pesce di Schigi a Tokyo, il più grande del mondo, i prezzi sono in forte calo perché i consumatori stanno cominciando a preoccuparsi anche del sushi, visto che ogni giorno escono notizie sulla radioattività nel tratto di mare vicino alla centrale. È vero che lì non si pesca, ma l'allarme nazionale e internazionale sui prodotti agricoli, più o meno fondato, sembra destinato a continuare. Anche se il governo giapponese sta rafforzando le indicazioni di provenienza geografica per distinguere i prodotti del nord da quelli del sud del paese. Domani il premier Noto Kan visiterà la zona di Fukushima e prometterà compensazioni ai contadini in lacrime. Uno di loro è stata la prima vittima della centrale atomica. Si è suicidato perché non poteva più vendere le sue verdure. Stefano Carrer, Radio 24, Solo 24 Ore, Tokyo. Torniamo in Italia. Nuovi elementi di prova per il processo sul caso Ruby li hanno depositati questa mattina ai PM. Secondo quanto si è appreso, ci sarebbero nuove testimonianze e accertamenti sui tabulati telefonici. Cancelli delle metropolitane chiusi, bus quasi introvabili, traffico impazzito in molte grandi città, lo sciopero del trasporto pubblico locale delle ferrovie ha reso oggi davvero difficili gli spostamenti, l'adesione secondo i sindacati è vicina al 90%. E allora sentiamo. Le 13:16, le notizie di oggi di GR24, immigrati, uno tsunami umano, dice il governo, rimpatri in Tunisia e tendopoli in ogni regione, i governatori dicono no. La Francia non può respingere gli immigrati alla frontiera, Bruxelles ammonisce Parigi. Napolitano vede anche Lega Italia dei Valori, il Quirinale chiede un dibattito più sereno. E noi torniamo in studio per parlare di beni culturali. Andrea Carandini dovrebbe tornare a presiedere il Consiglio Superiore dei Beni Culturali, ritirando le dimissioni annunciate per protestare contro i tagli al settore. L'archeologo ha incontrato il nuovo ministro Giancarlo Galan. Perché della decisione? Quali le nuove garanzie dopo il ritiro dei tagli alla cultura, di cui abbiamo parlato molto a Radio 24? Lo chiediamo direttamente al professor Andrea Carandini, che saluto. Buongiorno. Buongiorno. Professor Carandini, ci sono le condizioni dunque per tornare a lavorare? Beh, io direi di sì, nel senso che già io avevo dato la mia disponibilità dopo la nomina del ministro e dopo soprattutto dopo la svolta sui fondi e sul personale. E però io ho voluto incontrare il ministro, che mi ha chiamato, e gli ho esposto quelli che a mio avviso sono i problemi più gravi e più impellenti dei beni culturali in Italia e del ministero. Abbiamo riscontrato similianza e spesso identità di vedute, e quindi alla fine dell'incontro lui mi ha chiesto di ritirare le dimissioni e io ho accettato. Professore, è vero che andrà insieme al ministro a Pompei? Sì, è un appuntamento, il ministro mi ha chiesto di accompagnarlo e quindi siccome poi il Consiglio Superiore e il Segretariato Generale hanno elaborato un nuovo metodo per la manutenzione programmata della città antica, sarà anche il momento per varare questa nuova metodologia avvalendosi anche del nuovo personale che il decreto legge concede a Pompei. Ovviamente parlando di beni funzionari che di operai. Parlando di beni culturali, le emergenze sono tantissime. Le priorità, secondo lei, i primi due obiettivi? Guardi, le cose più minacciate in assoluto sono certamente le rovine archeologiche. E le rovine archeologiche non si salvano con i restauri a posteriori dopo i crolli, ma impostando appunto una manutenzione programmata, che è un po' quella cura dei piccoli dettagli e quindi poco costosa che facciamo tutti noi in casa nostra. E grazie allora per essere state con noi. Buon lavoro al professor Andrea Carandini. Grazie a voi. E noi voltiamo ancora una volta pagina, veniamo invece ai dati sulla disoccupazione perché sono stati diffusi questa mattina. Tasso di occupazione stabile a febbraio al 56,7% con la disoccupazione che dà qualche segno di miglioramento, ma il 2010 è stato un anno nero. Dal consuntivo Istat emerge una disoccupazione record all'8,4%, il dato più alto dal 2004. In un anno l'occupazione italiana ha perso 336.000 posti, ma l'occupazione straniera è aumentata di 183.000 unità. Per l'Istat l'occupazione stenta comunque a ripartire in modo deciso e un ruolo importante è giocato dal fenomeno dello scoraggiamento che induce tanti a non mettersi sul mercato del lavoro. La disoccupazione, spiega comunque il ministro del lavoro Maurizio Sacconi, resta a febbraio sotto la media europea. Cresce il numero degli occupati, scende il tasso di disoccupazione, in particolare scende la disoccupazione giovanile come quella femminile. La ripresa sta producendo effetti sull'occupazione, non soltanto in termini di assorbimento della cassa integrazione, ma anche in termini di maggiori occupati. Dobbiamo accompagnare ulteriormente questa tendenza, favorendo in modo particolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Via libera, intanto, al primo fondo pensione per i lavoratori temporanei. Teresa Trillò, da Radio Cor, per Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero del Tesoro al lavoro per arginare la valanga di ricorsi in arrivo dei precari della scuola dopo il risarcimento record stabilito dal Tribunale di Genova. Sono 65.000 gli insegnanti con almeno 3 contratti annuali di fila che potrebbero fare ricorso al giudice secondo la direttiva europea. Il costo totale dei risarcimenti sarebbe di circa 3 miliardi di euro e il governo sta valutando l'ipotesi, che risulterebbe meno onerosa, di assunzioni di massa. Ma perché non approfittare di questo momento per affrontare una volta per tutti il problema della scuola? È stata la proposta del giuslavorista lavorista e parlamentare PD Pietro Ichino, lo ha intervistato Maria Piera Ceci. Il diritto europeo non ci consente di mantenere l'attuale dualismo caratteristico del nostro mercato del lavoro, del tessuto produttivo, sia nel settore pubblico che nel settore privato. La direttiva europea numero 70 del 99 innanzitutto vieta di utilizzare il lavoro precario come forma normale di ingaggio dei lavoratori. Ora, come si può cambiare? Noi non possiamo pensare di estendere l'attuale diritto del lavoro a tutti i 18 milioni e mezzo di lavoratori dipendenti, perché il sistema non lo reggerebbe. Io dico che bisogna tirare una linea e da oggi in avanti, per tutte le nuove assunzioni, occorre un nuovo diritto del lavoro che sia davvero applicabile a tutti. Quindi nel settore del pubblico impiego, tutti a tempo indeterminato, ma nessuno inamovibile. Lettera di Lactalis alla CDA di Parma, l'ha riunito a Milano, l'azienda francese sostiene che l'antitrust europea non è un motivo per rinviare l'assemblea, che sono stati superati i termini previsti dallo statuto e dalla legge per procedere a una nuova convocazione dei soci. Ma intanto sentiamo che succede a Milano. Ore decisive per Parmalat. Poco meno di un'ora fa è iniziato il CDA della società, che dovrà decidere se esistano le condizioni per rinviare l'assemblea dei soci prevista per la metà di aprile e dare così più tempo alla cordata italiana per preparare l'offensiva. Sul tavolo del board ci sarà anche la lettera inviata da Banca IMI, Mediobanca e Unicredit, in cui i tre istituti si dicono pronti ad offrire consulenze e finanziamenti a un'eventuale cordata italiana. In queste ore continuano a circolare molti nomi, compresi Ferrero e il fondo di private equity Clessidra. Ma l'intervento finora più deciso per la cordata italiana è arrivato dal governo, che ieri ha stabilito con un decreto che il Ministero dell'Economia e la Cassa Depositi e Prestiti potranno prendere quote azionarie di aziende strategiche, compresa Parmalat. Il pressing del governo, gli esposti della Consob e l'incertezza su quello che deciderà la Commissione europea, chiamata a valutare se ci sono problemi di antitrust nel caso Lactalis prenda il controllo di Parmalat, sono tutti elementi che il CDA dovrà prendere in considerazione per decidere se dare altri 2 mesi di tempo alla cordata italiana. I francesi di Lactalis stanno alla finestra e preparano possibili azioni di responsabilità contro il CDA se dovesse parteggiare per gli italiani. Guido Maurino, da Radio Corta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per la cronaca, il delitto dell'olgiata, Winston Manuel, il filippino fermato per l'omicidio di Alberi Caffilo della Torre, non ha risposto questa mattina alla GIP Francesco Patrone nell'interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Regina Coeli. Il GIP si è riservato di decidere sulla convalida del fermo. Poco più di 24 ore al derby tra Milan e Inter, ve l'avevamo promesso, e allora anche oggi con noi Dario Ceccarelli. C'è chi soffre soltanto d'amore, chi continua a sbagliare il rigore. Eh sì, è vietato sbagliare, il derby è sempre più derby, nel senso che il fascino della nostalgia sta giustamente lasciando il passo alla febbre sulla partita di domani, perché la posta è molto grossa, soprattutto se vince il Milan, perché con un successo si potrebbe a più 5 dall'Inter, e 5 punti, anche se poi mancheranno 7 giornate alla fine, il suo calendario è più difficile, sono sempre un bel capitale. Ma le variabili sono tantissime, perché nel derby l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, la testa, le rivalità, veleni e rivalse sono un mix imprevedibile. Nel Milan manca soprattutto Ibrahimovic, ma Pato e Robinho sono caricatissimi e vengono ripescati i senatori Abbiati, Nesta, Seedorf, proprio per dare più esperienza alla squadra. Sentiamo Seedorf, consapevole della posta in palio. Io dico che è decisivo, perché a livello psicologico vuol dire... Chi dice il contrario è un bugiardo. Noi giocatori sappiamo che è decisivo. Poi non vuol dire che è la fine, diciamo, che non si può recuperare da una parte o dall'altra. Però io non credo che nessuno dei due abbia voglia di andare a casa con 0 punti. Il Milan ha 2 risultati, vittoria e pareggio, l'Inter solo la vittoria. Per questo l'Inter ha una grande spinta, quella di strappare in corsa uno scudetto che sembrava già cucito sulle maglie rossonere. Poi c'è Leonardo, un ex pesante, andato via dal Milan non senza polemiche. Leonardo ha cambiato faccia all'Inter e ha fatto dimenticare le depressioni del dopo Mourinho. Però, come ha detto poco fa in una conferenza stampa, lui nega che questa sia la sua partita. Sentiamolo. Vorrei giocarla più che altro. Essere la partita dell'allenatore sinceramente mi sembra esagerato, io non riesco a dare tanta importanza a tutto quello, vi dico proprio come la penso, la pensavo così quando giocavo e la penso così anche oggi, credo che l'allenatore abbia il suo ruolo, ci mancherebbe altro, però credo che una partita così, principalmente quando comincia, è tanto dei giocatori, quindi non mi dimentico un secondo di quello che ho vissuto, lo so io quello che ho vissuto. Detto questo, credo davvero che non sarà la mia partita. L'ultima variabile è quella della sosta di campionato per le nazionali. Il Milan si è potuto riposare di più, le trasferte degli interisti, quasi tutte oltreoceano, sono state logoranti e alla fine anche fuso orario, stanchezza possono diventare una componente decisiva. Comunque, buon derby a tutti. E grazie a Dario Ceccarelli. C'è solo un'ultima notizia di calcio da aggiungere. La Federcalcio Bosnia, che è stata sospesa fino a nuovo ordine dalla FIFA e dall'UEFA. Ieri infatti è scaduto l'ultimatum sulle modifiche statutarie. La Bosnia, ricordiamo, è impegnata nel gruppo D delle qualificazioni agli europei 2012. Il suo prossimo impegno sarà il 3 giugno contro la Romania. E noi ci fermiamo davvero qui. Fabio Cantadori in regia. GR24 vi aspetta come sempre alle 14. Una buona giornata, un buon fine settimana da Anna Migliorati. GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.